Qualche tempo fa, Boris Porena, che considero un po' il mio maestro dal punto di vista proprio della visione del mondo, del modo di agire dentro il mondo, della filosofia di vita, mi disse che stava finendo un libro proprio sugli stili di pensiero e che avrebbe fatto piacere che io contribuisse a questo libro, magari scrivendolo a quattro mani oppure ne facessi un'introduzione. Io, naturalmente, accolsi questo invito con grande piacere, perché cooperare con Boris è sempre è un privilegio, insomma, stargli vicino, poter condividere il suo pensiero. Mi resi conto soltanto più avanti che questo impegno non era come avevo pensato, ma molto più complesso, perché il libro è un grosso libro, un libro che parla tra alcune delle cose più importanti, come noi pensiamo. Come si forma il nostro pensiero e che differenza c'è tra il modo di pensare di una persona e di un'altra, o come è diverso il modo di pensare mio di questa sera da quello di domani mattina, magari che cambio contesto. Naturalmente Boris si rivolse, mi disse questo perché sapeva che io, tra le competenze che ho sviluppato nella vita, anche la competenza della psicologia cognitiva, quindi non è un tema per me estraneo. Però comunque trattarlo soprattutto perché quello che avevo capito è che Boris voleva che io facessi la parte che lo collega, verso questo libro, a quello che si sa nel mondo accademico, negli studi scientifici, perché Boris è un pensatore libero, autonomo, che parte dalle sue esperienze di vita, è un filosofo della cultura, oltre che un compositore musicale e tutte le altre cose che ha fatto. Però è un pensatore libero, non è che lui si documenta necessariamente, non è un libro scientifico questo, e quindi quello che gli sarebbe piaciuto è che io coprissi questa parte, facessi da collegamento con ciò che oggi le teorie scientifiche dicono in questo settore. Beh, io non sono probabilmente all'altezza oggi di fare questo, anche perché quelle competenze che avevo sulla psicologia cognitiva risalgono ormai a parecchi anni fa. E oggi non ce l'ho più sotto mano. Ma proprio ripensandoci, in fondo il contributo che io posso dare a questo libro è un contributo che riguarda come io stesso, in questi anni, a partire da quegli studi, anch'io a mio modo, insieme a Carolina, insieme al nostro centro che si chiama Aleph, un centro per qualche aspetto simile al centro di Boris, abbiamo sviluppato. Quindi quello che potremo fare in questa conversazione, che parte da me, ma poi penso che andrà avanti con l'intervento di Boris, se riusciremo a collegarci attraverso questo mezzo dell'audio e comunque di altre persone, è quello appunto di creare un circuito autogenerativo sui temi che si sono sviluppati nel libro. La prima parte naturalmente sarà più che altro un monologo, ecco, io in questa parte comincerò a parlare della nostra posizione sugli stili di pensiero, perché effettivamente noi come Aleph abbiamo una serie di idee. Prima di iniziare, però, voglio partire dall'ultima parte del libro di Boris, in cui si parla delle motivazioni di questo libro. E mentre parliamo di questo, delle motivazioni del libro, intanto ci accorgiamo già che stiamo occupandoci di uno stile di pensiero, lo stile di pensiero che si occupa del perché. È diverso da uno stile di pensiero, cioè del perché come finalità. A perché cosa faccio questo? È un tipo di pensiero diverso da quello che pensa in termini di cause. Quindi, qual è la ragione che mi spinge a fare questo? Allora, ci occuperemo invece del perché, cioè dello scopo finale. Si distingue tra causa iniziale e causa finale. Boris, specialmente in questi ultimi anni, sempre più è attento ai temi dell'ecologia ed è preoccupato, come molti di noi, dello stato del mondo. E quindi tutta la sua attività di formazione, tutte le esperienze che ha avuto in questi 40 anni ormai di attività formativa, negli ultimi anni, di questi ultimi anni, la sta indirizzando sul tema di come possiamo garantire, se possibile ancora, una sopravvivenza nostra sul pianeta, visto le brutte condizioni in cui ci troviamo. E quindi sta mettendo in questi scritti una tensione verso che cosa? Di creare delle possibilità, cioè dare un contributo in questa direzione. E il punto centrale di questa della proposta di Boris è: sulla Terra le cose cambieranno se le persone diventeranno più consapevoli. Non possono essere le leggi, è difficile che ci saranno leggi sagge, o i trattati, perché, come sappiamo, gli interessi in gioco sono così forti che collettivamente abbiamo sviluppato una grande forma di stupidità e di miopia. Ma per contrastare questa forma di stupidità collettiva, l'unica strada sembra essere quella di recuperare l'intelligenza individuale, cioè o di piccoli gruppi, quello che nel mondo in fondo sta accadendo. C'è un libro che parla proprio di una moltitudine inarrestabile, cioè la moltitudine di persone ignote, non conosciute da nessuno, magari, che però si stanno occupando di come risolvere problemi che nel mondo, quei problemi che i politici sembra proprio in gran parte ignorare. I politici, perché ovviamente sono a loro volta sotto la pressione del multinazionale e dei centri economici e dei centri finanziari, che sono poi loro quelli che portano alla situazione attuale, che porta naturalmente alla continua crescita dei consumi, alle guerre e a tutte le cose che sappiamo. Bene, quindi il centro degli interessi di Boris in questo periodo sembra essere come favorire lo sviluppo della consapevolezza in più persone possibili. Naturalmente questo pone come prima cosa il problema della formazione nella scuola, ma non solo. In tutti i centri dove è possibile, cioè la formazione dovrà essere una formazione permanente. Allora, il tema della consapevolezza unisce il lavoro di Boris al nostro. Noi lavoriamo nella formazione personale, non nella scuola soprattutto, come fa Boris, ma la formazione a cui ci occupiamo noi, la formazione di adulti, il lavoro personale per sciogliere soprattutto le problematiche di sofferenza individuale. Io sono uno psicologo, sono un terapeuta e quindi affronto le problematiche in gran parte da quel punto di vista lì. Però vedo che poi alla fine gli strumenti che dovremo adoperare, sia per il lavoro di Boris sia per il nostro, sono simili. Nel senso che c'è un'unica cosa che veramente può fare in modo che noi come esseri umani possiamo sopravvivere sul pianeta. Se anziché farci accecare dalla stupidità collettiva indotta dai mass media, riprendiamo quello che è la nostra intelligenza, di cui tutti disponiamo. Intelligenza che si può sviluppare però soltanto se siamo in grado di staccarci dalla soggezione, dal condizionamento di questi messaggi che ci arrivano in continuazione. Quindi, consapevolezza individuale, consapevolezza nei gruppi, comprensione di cosa sta succedendo nel mondo e dal punto di vista nostro, come Aleph, comprensione del nostro mondo interiore. Per Boris il mondo interiore è soprattutto interessante come le persone pensano a livello cognitivo. Noi siamo interessati come terapeuti anche a come le persone pensano emotivamente, ma questo è un discorso a parte. Questa è la prima considerazione. Quindi la motivazione che ci accomuna, accomuna il nostro lavoro, il lavoro di Boris, è un lavoro sulla consapevolezza. Perché allora Boris si è occupato di stili di pensiero? Come mai gli è venuta questa idea? Beh, perché gli stili di pensiero, nel momento che ciascuno di noi uno stile di pensiero ne ha più di uno, anzi avverte Boris, c'è lo stile dogmatico, lo stile ipotetico-deduttivo, poi lui parla dello stile metaculturale tra gli altri, cioè lo stile che sa riflettere sul proprio pensiero, piuttosto raro come stile. Ecco, ognuno di questi stili che abita la nostra mente, se presi isolatamente, contiene delle risorse, ma contiene anche dei punti ciechi. E quindi l'idea di Boris è che non c'è uno stile unico che può funzionare, ma è proprio il dialogo tra stili diversi. Lo stile metaculturale di cui lui parla, di cui lui è assertore, è proprio questo. uno stile di pensiero che sappia far dialogare gli altri stili di pensiero. In primo luogo all'interno della propria mente, come un abito mentale, e poi nella conversazione tra le persone, nelle attività formative, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e ovunque. Finché questo stile di pensiero capace di riflettere su se stesso non si sviluppa, chiaramente noi siamo identificati nelle nostre idee. È ben noto che l'identificazione, tutto ciò a cui siamo identificati, ci domina. Quindi non c'è niente di buono nell'essere identificati. Questo ce lo insegna la psicosintesi. Qualunque cosa in cui siamo identificati, anche se apparentemente può avere qualche vantaggio, di per sé ha un costo molto alto, che è il dominio su di noi. Bene, quindi la capacità di la consapevolezza è il processo di disidentificazione dei propri processi di pensiero. E il primo modo è rendersi conto come pensiamo, qual è lo stile. Ecco, Boris sottolinea stile di pensiero, non contenuto di pensiero, non è interessato il contenuto. E a un certo punto, per esempio, nel libro dice: certo, noi non siamo d'accordo con un terrorista, pensiamo diversamente, ma magari lo stile di pensiero non è mica molto diverso. E Boris dice: se lo stile di pensiero è lo stesso di quello del terrorista, per esempio dogmatico, magari non siamo terroristi, ma produciamo altrettanto danno, per esempio prevedendo che coi terroristi bisogna promuovere, l'unico modo per fermare i terroristi sia una guerra. Questo è un modo altrettanto pericoloso del pensiero terrorista. Allora, questo esempio può valere un po' per tutti, no? Ecco. Adesso mi fermo qui come prima parte e prima di entrare poi nei contenuti del libro, che ovviamente sono ricchissimo, comincerei a esporre invece qual è il punto di vista di Aleph sugli stili di pensiero, perché anche noi ce ne siamo occupati in modo differente da Boris, e soprattutto la nostra base di riferimento è una base che ha i fondamenti della psicologia, nelle conoscenze psicologiche che si traggono non solo dall'università come la psicologia cognitiva, ma anche da altri tipi di formazione, di modelli psicologici che all'università non vengono studiati, come la psicosintesi, l'analisi transazionale, la PNL e così via. Quindi cercherò di fare un quadro breve, sintetico, però dello stato dell'arte sugli stili di pensiero, diciamo in modo non sistematico, ovviamente, in modo discorsivo e anche non accademico, cioè non mi limiterò a ciò che dicono la psicologia ufficiale, ecco, ma mi riferirò a tutti quei tipi di psicologia che in parte sono ignorati dal mondo accademico, ma che viceversa coloro che lavorano nel campo psicologico davvero, che sono terapeuti o formatori, utilizzano tutti i giorni, ecco. Cioè, per esempio la psicosintesi non credo venga insegnata in nessuna università italiana, l'analisi transazionale nemmeno, la PNL nemmeno, però sono tra gli strumenti che vengono più utilizzati nel mondo della formazione e quindi sono quelli che poi alla fine ci interessano. Quindi aprirò questa tematica, una carrellata che sugli stili di pensiero, su ciò che in qualche modo può essere messo dentro questo contenitore, dal nostro punto di vista.